tu mi vieni a dire che l'uomo muore lontano dalla vita, lontano dal dolore, e in questa quasi indifferenza non è più capace di ritrovare il suo pianeta fatto di aria e luce. E tu mi vieni a dire che il mio presente è come un breve amore del tutto inconsistente, che preso dai miei sogni io non mi sto accorgendo che siamo al capolinea, al termine del mondo. E tu mi vieni a dire che tutto è osceno, che non c'è più nessuno che sceglie il suo destino. Non ci rendiamo conto che siamo tutti in guerra, di un grande smarrimento e di una follia suicida. E sento che hai ragione se mi vieni a dire che l'uomo sta correndo e coi progressi della scienza ha già stravolto il mondo, però non sa capire che cosa c'è di vero nell'arco di una vita tra la culla e il cimitero. E tu mi vieni a dire c'è solo odio e ci sarà sempre qualche guerra, qualche altro genocidio e anche in certi gesti che sembrano solidali non c'è più un individuo, siamo ormai tutti uguali. E sento che hai ragione se mi vieni a dire che anche i più normali in mezzo ad una folla diventano bestiali, e questa specie di calma nel nostro mondo civile è solo un'apparenza, solo un velo sottile. E tu mi vieni a dire quasi gridando che non c'è più salvezza, sta sprofondando il mondo, ma io ti voglio dire che non è mai finita, che tutto quel che accade fa parte della vita. Ma io ti voglio dire che non è mai finito, che tutto quel che accade parte della vita. Carlo De Bello.